Attento Rattalino, ci sei? Attento Rattalino, ci sei? Sì, avanti? Avanti chi è? Avanti su canale 10. Chi è avanti? Attento, scegli fuori, vedeassi, ci sei? E beh, non rispondi? Forse è reso da balla. C'è qualcuno all'ascolto? Sono qua Natalino. Attento Natalino. Siamo qui, c'è il volume a zero. Me l'ho immaginato, perché ti ho chiamato tre volte. Me l'ho immaginato. Oh signor, la vecchiaia Carronia. Vabbè, e comunque è bello arrivarci anche alla vecchiaia, perché se no sarebbe triste veramente. Ma come si chiama Varruiu, quello delle Olimpiadi? Mio nipote, sì, sesto arrivato. È il primo nella sua categoria in Europa, nel suo peso, là. Il primo in Europa, e sesto in risultato finale. È andato molto, ma molto bene. Io l'ho visto, ha alzato un bene. E da Andrea Dischi di Chidimani, chi sta da Cantuso? Te lo dico io. Allora, lo strappo ha fatto 127 kg di strappo e di slancio ha fatto 159 kg. Mentre invece, quando è 3-4 mesi fa in Russia, quando è andato a fare gli europei, rispetto al giorno degli europei ha migliorato di 2 kg lo strappo e di 1 kg lo slancio ha migliorato, perché prima era 125-158, adesso ha fatto 127-159. Ho capito. Bene, già si vede, via. Che bravo visto. È medaglia di bronzo agli europei, dunque, infatti è il primo in Europa, non so se l'hai letto il giornale, adesso il giorno 3 rientra, il giorno 3 rientra qui a Sassari, dai. Ecco, hai capito, ma chi ci vuole un premio, che sta mangiando tutto? No, allora, prima di partire gli hanno dato, intanto gli hanno dato 6.000 euro come premiazione degli europei, no? Perché medaglia di bronzo agli europei. E poi gli hanno dato anche 20.000 euro per il viaggio a Tokyo. Figurati. Aspetta un attimo che vado a dare un pezzettino di wurster a questo cane che pretende il premio quando si mangia tutto. Ha ragione, anche lui ha i suoi diritti. Ricciolaggi, è giunta c'è mamma, che guria ha dalle rubrime, infatti ho guardato la ciotola e l'ha fatta burita. L'ha compreso. Bene, è con rubrime. Ma è che i cani sono intelligenti, però non ti crederei. Quando tu l'abiti in una certa maniera, poi non te lo può dire perché non può parlare, però te lo fa capire che sta aspettando quello che tu gli hai insegnato ad avere. Adesso sta andando anche da solo, prima aveva paura a uscire da solo. Siccome ti ha giudizio di dargli un premio, allora va a fare la rasura, quasi la bimbi e si nasce. Io la baito da vacone. Adesso comincia ad essere adulto, prima forse era un cucciolo, io lo guido. Gli animali sono come i bambini lì. Poi a un certo punto, dopo un certo periodo di tempo, diventano indipendenti anche loro. Escono e ritornano. È così anche il gatto, tutti sono così, quegli animali domestici di quel tipo. Ma lui aveva paura anche perché quando io se lo posso, no, che non gli metto il guinzaglio, se io tardo, siccome sa che io cammino piano quando mi faceva male la gamba, allora lui se non mi vede arrivare mi aspettava, si vè ma proprio è mai zitta, ti sto dicendo non fare i bill. Beh certo che sì, l'animale capisce, altro che se capisce. Certo, io mi ricordo che avevo un cane la caccia mio fratello aveva, ma era eccezionale. E questo era, siccome mio fratello era cacciatore, no? Ma io parlo di diversi anni fa. E avevo questo cane, si chiamava Lola, era femmina questo cane. E lui aveva, mio fratello aveva un pezzo di pelle secca, strasecca, di pelle di coniglio, quindi, di cosa che aveva cacciato lui. E dunque la pelle ce l'aveva. E un giorno le fa al giovanotto che c'era con lui in via Lura lavorando insieme, perché anche lui aveva la famiglia Emiliano per conto suo, e le fa: Antonio, mantienimi un attimo a Lola, perché se esco mi viene appresso. E così ha fatto: Lola, vieni, vieni, e l'ha mantenuta. Lui cosa ha fatto mio fratello? Usciva ogni 2 metri più o meno, ogni 2 o 3 passi faceva una strisciata con questa pelle secca per terra, e ha fatto da via Lura fino a via Lucilla, dove ero io, e ha nascosto la pelle, l'ha nascosta dietro il mucchio del legname, dove c'erano tutti i ritagli, avanzi, eccetera, l'ha nascosta di dietro. Fatemi adesso dopo un po' il ragazzo che aveva ammollato il cane, vai Lola, prendilo, vai, cercalo. Beh, lo sai che il cane è arrivato fino a bottega, direttamente all'angolo dove c'era la pelle nascosta dietro il legno, che nessuno la poteva vedere. L'ha trovata, altro che se l'ha trovata. L'istinto, Gian Green l'ha ciappata. A chi è dove l'avrei avanti e si chiama la traccia, Eddie? Allora, ma dire, beh, è una cosa fresca e lascia l'orrore per terra. Sì, c'è una cosa secca e strasecca, perché ce l'aveva un sacco di tempo questa pelle di coniglio. E dunque, per dire, no, gli animali hanno un olfatto straordinario, guarda. E infatti, è già giunta a un montone di ritagli in chili, a vederla se la usa. Sono bravi quei cani. E così mio cugino, che è cacciatore, quello ci ha avuto cani che erano dei campioni, campioni a virubero. E certo che sì, ma gli animali hanno delle qualità fisiche straordinarie, un po' tutto. Tu mi hai, te ne vuoi togliere la soddisfazione, se vai per dire che sono io al mare, no? E sei in spiaggia, tanto per fare un esempio. A un certo momento prendi un pezzetto di pane, ma cosa, anche piccola, no? La prendi e te la butti davanti lì, davanti ai fini, così, in spiaggia, no? Tu mi dirai, ma a toccare la spiaggia? No, no. Stai tranquillo che arrivano lì i gabbiani, no? Mi sono dubbi, perché hanno una vista micidiale, anche a distanza di chilometri. Vedrai che si cominciano a girosolare attorno, trovano il momento opportuno, scendono e si beccano il pane che tu hai buttato. Questo te lo posso garantire. Io anch'io. Aspettino. Vabbè, no, non entra nessuno, gatta. Solo noi ci siamo. I vecchietti che... vabbè, guardate che entri magari Antonio, cioè Roberto Quadrato, ogni tanto anche lui la sera, ma adesso la gente se va a mare, si sa, c'è anche quello da considerare, per cui poi se non ne hanno voglia, pazienza, cosa ci puoi fare? Non so, tanta gente assente, tanta gente, Marco non entra, Claudio, vabbè, è sempre impegnato e non ne ha voglia, fin quando non si sistema tutte le cose che deve fare a casa, che sono più importanti sicuramente del barattino. E vabbè, guardando tempi migliori, in realtà speriamo di sì, appunto, per cui che problemi ci sono? Se la gente vuole entrare, la porta è sempre aperta, se non vuole entrare, pazienza, non ci possiamo fare niente. Ieri sera è entrato Antonio Bombo, le 8 meno 10, una cosa così, proprio nel momento che io ero tutta la sera acceso, avevo fatto una decina di chiamate e appunto nessuno aveva risposto. Sono passato sul 23, c'era Marino, ma proprio nel momento che sono passato anche Marino stava chiudendo, era Marino e Don Maria, anche lì chiuso, non per mai nessuno, al massimo puoi trovare Antone e a Don Maria sul canale 23, oppure qualche volta, non sempre, ma veramente qualche volta trovi a Marino, poi tutti gli altri, tutti Parigi, Graziano l'ho sempre inteso, e tutti gli altri non si sono più sentiti, donna mi cara, dai. E infatti, chi su Graziano quanto mi va di arredire, che sta una voce ai due a dieta al momento da cosa. Ed Eddu mi cavava tutti i piatti più buoni, ne ricavava Eddu, tutti si rimaniava Eddu, invece non era vero. Tutti muso, a porta me lo faccio. No, ma Graziano è uno che non si fa manca niente, perché Graziano è anche uno che ha i mesi per potersi tenere bene, no? Non ne sono problemi. Tu non hai idea di quanti messaggi mi manda, tanti voci, per dire fa un piatto particolare che so io, prendi e mi manda la fotografia, mi manda. Fammi ingelosire, a me manco un capo mi dimassa, figurati, proprio a me poi, ma lo fa così per scherzo, con un Graziano lo andiamo molto d'accordo, adesso sono da un bel po' di tempo senza sentirlo, speriamo che sia bene, poveretto, già lo sai, tutte le cose che lui ha, e questo mi dispiace, perché Graziano è una persona, intanto è bravissima, e poi è veramente in gamba, dai. Se non ci fosse stato l'avremmo dovuto inventare, Graziano. Sì, a me mi faceva crepare dal ridere a troppo solo. Infatti, anche lui ha problemi magari di spazio e tante volte non attacca, non accende. Si sentiva un po' di più in PMR, ma adesso in PMR nessuno sta entrando. Per cui io ce l'ho nuovo da 6-7 mesi, il PMR, se l'ho usato due volte, non di più, due volte, ma per 5 minuti alla volta, niente di più. Nuovo, ma un giocattolino mi dà 30 euro, niente di più. Io ho capito, e cosa vuoi? Purtroppo se non entrano, io manco ascolto sto facendo, perché no. Infatti in quei giorni scorsi non ho manco acceso perché non ne avevo voglia, oltre che dovevo fare cosa. Adesso domani mi tocca accompagnare, domani mattina mi tocca accompagnare mia moglie a fare una commissione e via, e tira a campare. Certo che sì, è ovvio, quando c'è da fare cose di casa bisogna farle, no? Inutile stare lì, puoi rimandare un giorno, due giorni, ma bisogna farle, è ovvio. Se non te ne fai tu che te ne fai le commissioni. Va bene così. E anch'io domani mi farò le mie commissioni, per cui andiamo bene così. Una al giorno, come dice il dottore, una dose al giorno toglie il dottore di torno. Così sia. E allora, e vabbè, intanto con un impasto mi lascio, io muro, a me da voi poco mi devi, comunque, perché tanto io non ci devo andare a ballare, ma serve perché adesso dal giorno 6 agosto entra in vigore questo fatto del Green Pass, e quando vai in un posto devi averlo, se te lo chiedono lo devi avere, anche in un negozio, un supermercato eccetera, so che è così. E non di assembramento di domanda, è anche una cosa logica, no? Beh, certo che sì, poi cose rare non voleva, cioè lo scopo del governo è quello di obbligare praticamente le persone a vaccinarsi tutti, e secondo me non è nemmeno sbagliato, perché i vaccini hanno fatto sempre, sì, naturalmente ci sono dei momenti che possono anche fare danno, però si sa, come dicono loro, sono più i privilegi che i danni, è giusto così. Da quando è mondo in mondo il vaccino è sempre esistito. Torniamo indietro, sto parlando ad esempio di poliomielite, di colera, di tutte queste cose qua, tanto per ricordarci, no? Per dire, i vaccini sono necessari. Io lo credo. E poi questo non hanno capito la gente, che questo Green Pass serve per non chiudere le attività, perché se chiudono sono le attività, allora non ti rialzi più. Sì, infatti è proprio quello che sta sempre, lo stanno dicendo da tantissimi giorni, dice noi l'attività non la vogliamo chiudere perché l'economia sarebbe un danno per l'economia, però bisogna prendere dei provvedimenti che possano ridurre, e non a caso questi vaccini anche il numero di morti li hanno ridotti, perché poi problema, muovono tutti i tantissimi giorni, non lo so, quindi non muovono quasi 150 miglia in Italia, non è poco, ci siamo dimenticati quando dall'Alta Italia, dalla Lombardia e anche da Bolzano, quella zona lì, che si buttava nelle mucce con un camion, ci siamo dimenticati, non ce ne possiamo dimenticare, per cui il vaccino, anche se non è una cura, però è un, ti preserva, e se ti prendi il contagio, perché lo puoi prendere ugualmente, ma allo stesso tempo non è così pericoloso come lo era prima. Perché se non sei vaccinato ti aggredisce direttamente ai polmoni e ti fotte. Hai capito cos'è il discorso? E invece se tu sei vaccinato la prendi in maniera più leggera, non vai a finire in rianimazione. Infatti, ma certa gente non lo vuole capire, cosa vuoi dire? Che poi io parto sempre dall'idea che dove finiscono i tuoi diritti, premesso che tu non ne voglia fare del vaccino, ricordati che iniziano i miei diritti anche, per cui se tu ti prendi un contagio e ti avvicini a me, tu me lo puoi contagiare, per cui dove finiscono i tuoi diritti, iniziano i miei, tanto per dare l'idea, no? È questo che ti vuole intendere, intenda. Io credo che è grave, ciao Vanni, e beh, sì, ma l'ho detto anch'io poco fa, non è che uno, non è una cura, il vaccino non è una cura, è una prevenzione che ti limita, diciamo, i danni più grossi, ecco qual è il discorso, Vanni. E allora, buonasera Vanni, avanti, sono con Natalino. Certo, ma come tutti i vaccini ci sono le controindicazioni, ma l'ho detto anche poc'anzi, tutti i vaccini che sono stati da quando nel mondo ci sono state sempre le controindicazioni, però gli effetti positivi sono di gran lunga superiori agli effetti negativi, questo è il discorso, è quello. E dicono questo, gli scienziati soprattutto, quello che non mi piace quando si presentano in televisione che uno si contraddice con l'altro, e questo non, secondo me non va bene, perché così non fai altro che confondere la mente delle persone, e chiaramente a questo punto è ovvio che poi c'è quello che diffida, non le vuole fare, compresi anche tanti medici che non lo voglio fare, tanti sanitari, non solo medici ma anche infermieri, eccetera. Va bene, dai. Comunque ognuno ha le sue idee, e io l'ho fatto, e grazie a Dio ancora sono vivo, e faccio le dare in bagno. Avanti Natali, c'è Vannino. Già lo sento Vannino, non lo so se lui sente a me, a te un attimo. Vanni, mi senti? Certo che sì, Vanni, certo, no, ma ti capisco perfettamente, guarda, io lo stesso, anch'io i miei dubbi ce li ho, non è detto perché io l'ho fatto perché ho pensato alla maggioranza delle persone, perlomeno parlando di scienziati, eccetera, che dicono che è necessario farlo per evitare guai maggiori. Del resto di oltre 4 milioni di morti nel mondo ci fanno un po' riflettere, dunque è molto bambuccio, tanto vale, sento questa prevenzione, e uno deve anche ragionare su questi temi. Poi sono d'accordo con te che la Costituzione stesso non ti obbliga a fare quello che vogliono fare loro, certo che non ti obbliga, lo so benissimo, però purtroppo è così, i vaccini li hanno sempre fatti, da sempre. Io conosco delle persone, sono nate sane, male in piedi, e ad esempio quando per una puntura da niente, tipo ad esempio il polio, se l'hanno preso e sono rovinati a vita, e tra questi c'è un mio cognato anche, tanto per farti un'idea, ce l'ho a casa io il problema, o meglio in famiglia, non a casa mia, ma in famiglia, per dirti come stanno le cose. Eppure era un giovane d'oro, quando è nato era un bellissimo bambino di lusso, da bambino si è preso il polio, si è preso e purtroppo l'ha danneggiato la gamba, ed è zoppo, per dirti, no, una persona squisitissima, non perché è mio cognato per carità, ma è perché è veramente una grandissima persona, e purtroppo è così, i vaccini lo sappiamo benissimo, non lo sanno nemmeno loro effettivamente. L'unica cosa che vi posso dare di merito è che questi vaccini prima ci pregavano anni per farlo, questa volta l'hanno fatto in breve tempo. Tu mi dirai, ma facendo in breve tempo probabilmente non è una cosa tanto sicura. Ma intanto nel frattempo stanno risolvendo il problema almeno dei morti, questo lo stanno risolvendo. Tutto lì. Vai Nathalie, scusa il monologo fra me e Vannino. Ma è meglio che se lo facciano il vaccino, perché se poi chiudono le attività ne risente l'economia e non si rialzi più. Già siamo inguaiati, figurati se richiudono tutto attorno. Se aumentano i contagi è un casotto. Sì, ma quello l'ho pensato anch'io, perché prima io quando prendevo il giornale la mattina vedevo che di morti ce n'erano in abbondanza, ce n'erano tutti i santissimi giorni nel necrologio della Nuova Sardegna, no? È ovvio, però devi considerare questo, Vanni, poi si sa, lo sappiamo benissimo che certi non possiamo essere nella maniera più assoluta, loro dicevano che erano per Covid e prendiamolo per buono, poi si hanno raccontato bugie, che sicuramente ce ne sono state tante bugie, questo ne sono più che convinto anch'io, però il discorso era questo, che in quel periodo portavano via i morti con il camion e il discorso è questo, quando le persone vivono in maniera naturale come tutti i giorni o di malattia o per vecchiaia eccetera, ma in quei mesi scorsi, cioè di un anno fa, portavano via i morti con il camion, perché non c'era posto dove metterli. In Brasile addirittura hanno fatto un cimitero enorme, aprivano le strade, mettevano tutti uno in fila all'altro e li sotterravano perché non avevano più spazio nei cimiteri per poterli sotterrare. E dunque questo non è che è una cosa da sottovalutare. Poi di bugie ne hanno detto tante, continueranno a dirle e noi magari ce li beviamo anche, perché noi purtroppo siamo indifesi nel capire certe cose e allora le lasciamo dire. Ascoltiamo e basta, tanto non ci possiamo fare niente. Avanti Nathalie. Io vi saluto che devo chiudere purtroppo. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Giulio, ciao Vannino, se ancora sei all'ascolto. Ci sentiamo alle prossime, querti per me. Ok, ciao Nathalie, ci sentiamo alle prossime, dai, grazie per la chiacchieratina, a domani se coincide. Avanti Vannino. Sì, ma questo sicuramente, Vanni, lo so benissimo, purtroppo noi non avendo informazioni sicure siamo alle volte anche costretti a credere, o perlomeno chi non vuole credere, chi ha qualche dubbio, il dubbio se lo tiene e tira a campare lo stesso, no? Questo sì, ma per dire, no, poi come devi fare a questo punto? Una persona normalissima come posso essere io, come puoi essere tu, cosa dobbiamo fare quando senti certe chiacchiere, da una parte ti dicono una cosa, dall'altra te ne dicono un'altra diversa, o addirittura fra di loro, fra scienziati in televisione si contraddiscono l'uno contro l'altro, cose addirittura assurde, ma quando mai non ci deve essere una linearità unica di pensiero? Invece no, addirittura si fanno vedere buffoni, pagliacci in televisione, uno dice una cosa e l'altro ne dice un'altra, poi chi ha ragione questo non si sa, io non lo posso sapere di certo, io al massimo posso ascoltare come puoi ascoltare tu e come può ascoltare tutto il popolo. Hai ragione, è terrorismo, infatti il popolo è terrorizzato proprio da certe dichiarazioni, da certe conversazioni che sentiamo, è veramente schifoso, ma per carità. Poi oltre a quello ci si aggiungono anche le calamità naturali, tipo quella che è successo in questi giorni in Sardegna con gli incendi, anche se anche lì c'è da pensare che ci sia la mano dell'uomo, il farabutto che ha fatto certe cose, comunque sono altre cose, altre questioni quelle, Vanni, riprendi. Ma tu sei Giulio, E fai bene, un attimo che mi chiama. Ciao Vanini, grazie per la chiacchieratina, è stato un piacere scambiare due chiacchiere con te, dai, come sempre, chiaramente. Ci sentiamo le prossime quando coincide. Fatti sentire ogni tanto anche qua, così almeno scambiamo due chiacchiere, che ci fa bene. Visto che sta perlomeno più io, e mi sto scambiando due chiacchiere. Avanti l'amico che mi chiamava, chi è? Giulio, allora. Guarda, hai una radio fissima, io non capisco molto bene quello che dici. Se vuoi parlare un po' più lentamente, vediamo un po', anche perché avevi un innesco adesso. Hai un innesco, lo so, chi sei? Antonio sei, boh, non capisco. È un innesco, Antonio, cosa vuoi che dica? Avrai qualche altra cosa? C'era lì. Ma le cuffie hai, guarda, controlla. Non si capisce bene quello che dici, purtroppo la tua modulazione è forza, sei pieno di fischi, controlla tu, aggiusta la radio in qualche maniera. Vabbè dai, ciao Vanini, ti sei ancora d'accordo, ti saluto nuovamente, alle prossime, è stato un piacere ascoltarti, ciao Vanini, alle prossime. Sì, c'è sempre il fischietto, l'innesco c'è sempre. Guarda il microfono, Giulio, sono Cristoforo. Hai detto che è il microfono? Non lo so, tu, vedi un po'. Anche la radio di segnale mi sta arrivando a Santiago Rotto, solitamente ne arrivi 9 più 5, però questo è un altro discorso, magari quello lì è il baracchino, è di un'altra potenza, e vabbè, però c'è l'innesco, tu. Giulio, sono Cristian, mi fate la foto di Antonio. Guarda, io faccio fatica a capire quello che dici. Hai una modulazione talmente cupa e carica di fischietti che da me giunge alla radio molto sporca e non capisco quasi niente di quello che dici. Avanti. Antonio, ma ci stavate alla radio?